lo so che cos'è che mi fa sperare ancora che qui cambierà. E dove andare, che cosa fare, non c'è la quiete dopo il temporale. E forse so che se soltanto potessi tirare avanti i sogni senza rimorsi. Chi sogna resta all'ultimo, non mi resta che aspettare che mi vengano le parole per dimenticare il mondo e le sue sfaccettature e le facce strane. Non mi piace restare solo a guardare il mondo che va. Non riesco a capire come conquistare la mia libertà. Guardo attorno, cosa vedrò? C'è lo specchio dove non mi rifletto. Sarà la luce strana che c'è. Sarà che in fondo piace anche a me stare nella massa, andare a quella festa, avere un disco da comprare, un libro da finire ed un film da guardare. Ma non riesco ad accettare di essere qui troppo normale. Vorrei chiudere in un posto il mio sogno e riaprire solo per guardare. Non mi piace restare solo a guardare il mondo che va. Non riesco a capire come conquistare la mia libertà. Non mi piace restare solo a guardare il cielo in città. Riesco a capire se questo rumore fra un po' se ne andrà.